Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Con la puntata di stasera apriamo l'ultima settimana di trasmissione prima della pausa estiva, me ne vado un po' anch'io in vacanza. Parliamo del Biomass Energy Report che il Politecnico di Milano ha pubblicato recentemente, che fa il punto sull'uso della biomassa nel nostro paese. Diamo subito il benvenuto al nostro ospite, che è Vittorio Chiesa, direttore dell'Energy Strategy Group. Buonasera Chiesa, bentornato a Mr. Kilowatt. Buonasera a voi e ai radioascoltatori. Allora, iniziamo dal biogas, che sembra aver messo il turbo. Beh, il biogas obiettivamente, soprattutto quello di piccola taglia sotto il megawatt, ha avuto una crescita molto importante, è un tipo di investimento a cui si sono dedicati in maniera importante soprattutto gli operatori agricoli, le aziende agricole, perché appunto il ripagamento degli investimenti è molto interessante, possono utilizzare materia prima generalmente disponibile e quindi questo ha determinato una crescita molto importante di questo comparto. Sottolineo però il fatto che come sempre gli operatori si adeguano al quadro della regolazione, quindi è vero sotto il megawatt perché c'è la tariffa onnicomprensiva che è sufficientemente generosa, sì. Sopra il megawatt, dove si va incontro alla incertezza legata al sistema di certificati verdi, si fa molto poco per non dire nulla. Diciamo, spieghiamo un attimo come si produce questo biogas, cioè si produce facendo, diciamo, fermentare, mi passi il termine, sì. Scarti vegetali e animali, deiezioni, vero? Corretto, c'è okay. Una, diciamo, quella che si chiama digestione anaerobica e poi successivamente si brucia il biogas, che quindi va, è sostanzialmente un combustibile che alimenta una combustione tradizionale. Una piccola centrale elettrica. Sì. Quindi diciamo che da questo punto di vista la materia prima è necessariamente vicina a chi la utilizza, perché questa roba non si può trasportare su grandi distanze, no? Sì, tipicamente diciamo avviene in raggi molto limitati, insomma anche chi la acquista dall'esterno di fatto lo fa utilizzando le aziende agricole che sono nel territorio, quindi è un fatto che si risolve tipicamente in un ambito locale. E questo è un dato, mi sembra anche abbastanza positivo, e forse spiega in parte anche perché questi impianti poi non sono raramente più grandi di un megawatt. Cosa questa invece, diciamo, della filiera corta, che non avviene in una serie di altri settori, men che meno quello dei biocarburanti, da quello che si evince dal vostro rapporto? Sì, il settore dei biocarburanti diciamo ha un quadro abbastanza, diciamo, desolante complessivamente. Ah, okay. Il numero di operatori italiani è molto limitato, diciamo c'è un quadro di obblighi inferiore anche rispetto a quello degli altri paesi, mi riferisco all'immissione in consumo di biocarburanti. Esiste poi nel che devono essere terra, miscelati in una certa proporzione, sì, alle benzine, noi è 4%, e diesel. Per altri, sì, paesi si avvicina al 6, si raggiunge anche il 7, diciamo che poi però il problema di fondo è che i biocarburanti attuali vanno a confliggere con la filiera food e quindi in questo l'Europa poi non ha mai preso una posizione molto molto chiara, proprio perché vengono a creare tensioni sul mercato. E delle, quindi il risultato è che noi importiamo questi biocombustibili da altri paesi, sì, sostanzialmente. Sì, l'altro, no? Tema è che appunto tipicamente la produzione interna, diciamo all'Europa in generale, è troppo costosa, è più conveniente importarli, il prodotto importato di fatto costa meno del prodotto trasformato in Europa. Senta, ma è un problema dal punto di vista del bilancio energetico il fatto che questi combustibili arrivino spesso dall'altra parte del mondo? Sì, globalmente diciamo questo è un problema, tant'è vero che adesso sono state introdotte delle modifiche normative, per esempio sugli oli vegetali sarà necessario una qualifica di sostenibilità, quindi dimostrare che in realtà anche l'olio vegetale è di provenienza tale da consentire sull'intera filiera un abbattimento delle emissioni di CO2 e quindi anche garantire il fatto, per esempio, che l'olio sia stato prodotto evitando deforestazioni o un impoverimento dei territori laddove è stato coltivato. Sui biocarburanti in senso specifico è stata praticamente modificata la definizione di biocarburante, mm-hmm, per cui addirittura dal 2012 il bioetanolo prodotto da mais e da grano, o piuttosto che il biodiesel da olio di palma o da soia, non saranno più considerati biocarburanti, perché globalmente, diciamo, considerando l'intera filiera, quindi la produzione della materia prima, il trasporto, la distribuzione, e poi il la combustione, alla fine certo, devono avere un'emissione emissione o riduzione di gas serra che avviene in una certa percentuale, e questo tipo di prodotti di fatto non riescono a raggiungere le soglie che sono state imposte. Ecco, invece grandi aspettative ci sono per la seconda generazione di biocombustibili, che utilizza materie prime che non confliggono con l'agricoltura, e qui forse c'è una possibilità anche per l'Italia, per esempio, di produrre da sé una quota significativa dei biocombustibili che servono. Sì, sì. Come diceva appunto, i biocarburanti di seconda generazione fanno leva su materie prime di natura, diciamo, non food in termini generali, quindi si parla di biodiesel da alghe oppure di bioetanolo ottenuto per trasformazione di materie prime lignocellulosiche. In questo mi riferisco soprattutto al bioetanolo di seconda generazione, l'Italia potrebbe avere un ruolo. Per quanto riguarda le biomasse legnose invece, che cosa possiamo dire? Anche qui importiamo molto, ma sfruttiamo pochissimo quello che abbiamo sul nostro territorio, a quanto pare. Sì, anche qui diciamo la situazione è abbastanza controversa, si fa ricorso ampiamente all'importazione, sicuramente appunto le novità normative che sono attese per l'autunno dovrebbero cercare di chiarire anche il ricorso alla filiera corta, che sicuramente è auspicabile per il futuro. Questo dovrebbe magari favorire quella che si chiama la short rotation forestry, quindi il fatto di, come dire, mettere intorno agli impianti delle coltivazioni che poi vengano utilizzate per alimentare gli impianti stessi. Ecco, l'auspicio è che evidentemente questo aspetto venga enfatizzato dal sistema di incentivazione nuovo che dovrebbe appunto essere presentato prima della fine dell'anno. Grazie Vittorio Chiesa. Grazie a voi, a presto, arrivederci. Per stasera ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani, buona serata.